la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori della 24, qua in diretta alle 16:35, primi 30 secondi degli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, l'indirizzo versione di Oscar chiocciola radio24.it, il numero per chiamarci 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666. L'argomento del giorno, continuiamo come ieri a parlare di Roma, della indagine che travolge, stravolge la scena politica romana a destra ma anche a sinistra, quindi l'ex giunta Alemanno ma anche esponenti importanti del PD e anche collaboratori di prima fila della giunta attuale, sia pur senza toccare o lambire il sindaco Marino, che anzi esce da questa vicenda come rafforzato, l'uomo che non dava retta alle diverse correnti del PD si legge in questi due giorni in maniera diversa da come si leggeva nel passato, cioè come un improbabile goffo, seriale autore di gaffe, e però alla luce di quello che l'indagine sta portando alla luce ovviamente è un po' diversa la lettura. Però io prima di presentare di presentarvi l'ospite e di spiegarvi perché l'ho chiamato, per una cosa che ha scritto stamattina che mi è piaciuta molto, vi faccio un appello soprattutto a voi cittadini, ascoltatori e lettori, come a quel punto è ovvio, romani. Abbiate votato destra come abbiate votato sinistra, ho una curiosità, ma dopo questa vicenda è un po' più chiaro, ve lo chiedo forse, non lo so, voglio la vostra opinione, che la prossima volta, quando saranno convocate le elezioni, più che pensare a battere l'altra parte, come è un po' da 20 anni, è diventato sempre più barbaricamente sintetizzata la vicenda elettorale, no? La destra contro la sinistra e così via, più che questo dovrete guardare con prioritaria attenzione a chi ciascuno da casa sua vi propone e fare una scelta conseguente su quello, perché un'indagine come questa, che poi riguarda solo Roma, in questi giorni riguarda solo Roma, ma quanti coinvolgimenti a destra e a sinistra ci sono di una politica che si riduce a essere iperpermeabile a chi dalla malavita entra e a quel punto trova il politico che si fa corrompere, la malavita fa i soldi. Qui non stiamo parlando, capite, sulle tangenti, sugli appalti, stiamo parlando di un'altra cosa. Io credo che sia più estesa e non riguardi solo Roma, ma la prossima volta la capirete che c'è una scelta diversa da noi siamo i migliori degli altri per definizione, cioè la destra rispetto alla sinistra, la sinistra rispetto alla destra, mentre c'è un problema complessivo enorme che c'è a Roma ma c'è in tutta Italia. Per quello che mi riguarda, ora passo all'ospite, la vicenda di Roma è un po' come una lezione a tavolino di una cosa che si chiama public choice, capisco vi sembrerà arabo. Public choice è una grande scuola economica, James Buchanan, che dagli anni 50 e 60 ha rivoluzionato, per chi minoritariamente la pensa come me liberale, la maniera di guardare alle pubbliche amministrazioni e alla politica. Invece di continuare a ripeterci che la politica e la pubblica amministrazione sono i numi tutelari e sono i realizzatori del pubblico interesse, chi si riconosce in quel filone e ha accumulato molte ricerche per provarlo dice un'altra cosa, dice: guardate che la pubblica amministrazione e la politica risponde pro tempore agli interessi di chi ha vinto politicamente e di chi resta nell'amministrazione mentre i politici si alternano, fanno i loro interessi innanzitutto, e quindi quanto più la rete che amministrano è estesa e senza controllo, la rete dei miliardi pubblici in questo caso, tanto più il proprio interesse si identifica anche con quello di far entrare nella rete gli squali che mangiano, pagano il politico e il funzionario di turno, e poi il conto, cari elettori convinti invece di scegliere la politica per contrapposte idee di interessi generali, il conto lo pagate voi. Ecco, a me sembra che Roma, al di là dell'epos che capisco, Savianeo, sulla mafia e così via, è una lezione, una dimostrazione a tavolino della bontà, ahimè, di questa tesi. Quanto più sono i miliardi pubblici, ma soprattutto quanto meno sono controllabili, Tanto più il pescatore pubblico che tiene la rete in mano a maglie larghe è molto tentato dal far entrare uno squalo che per mangiare lo paga e poi il conto lo pagate voi. Quanto da tutto questo dipende il fatto che anche in questa vicenda romana i politici coinvolti da una parte e dall'altra, i funzionari pubblici che appartengono all'amministrazione permanente romana, i capi delle cooperative e così via, sono così abituati a vivere in condizioni principesche, con case al centro, case in periferia, seconde case e terze case, da considerare normale farsi pagare e pagare per queste cose, perché non vivono in una condizione che ha a che fare con quella media del paese. Non parlo di chi se la passa peggio, dei milioni di italiani che se la passano peggio, sono abituati oramai a vivere come principi e quindi a procurarsi le risorse necessarie ad alimentare la loro vita da principi e quindi a fare il pescatore pubblico che si fa pagare dallo squalo per venire a mangiare, perché tanto il conto lo pagate voi. Questa è la mia idea. Telefonate, magari mi direte che sbaglio tutto, perché ancora la prossima volta sarà far vincere la sinistra contro la destra oppure la destra contro la sinistra. L'ospite di oggi che abbiamo chiamato è un collega della Stampa, si chiama Mattia Feltri, che oggi ha scritto un pezzo, secondo me tra i più belli, dedicati alla vicenda romana, dedicato, diceva il titolo, allo spettacolare fallimento della destra. Buon pomeriggio e grazie Mattia Feltri di essere con noi. Buonasera a te Oscar e a tutti i tuoi ascoltatori. Perché è così spettacolare, per come l'hai descritto ma non ti ha letto, questo fallimento della destra a Roma? Ma guarda Oscar, è spettacolare perché la destra italiana, e per destra si intende diciamo il movimento sociale e tutto quello che ne è conseguito nella Seconda Repubblica, è stato nella Prima Repubblica tagliato fuori per tanti motivi che è inutile riassumere, dall'amministrazione, certo, delle città, delle regioni e del governo centrale. Poi all'inizio della Seconda Berlusconi scelse Fini come candidato e fu a quel punto sdoganato. E andò rapidamente al governo nel 94 immediatamente, e poi ha amministrato fino alla vetta più alta, che è stata quella di conquistare Roma con Alemanno. E in questi vent'anni, alla fine di questi vent'anni, vediamo una destra che non ha più un partito, perché ci sono tanti partitini. Il suo leader principale si è autoesiliato, parlo di Gianfranco Fini, si è autoesiliato per i suoi insuccessi e della esperienza di governo non ci sono rimasti grandi memorie, e per quanto riguarda Roma poi è finita così. Allora io parlo di declino spettacolare non perché faccio una valutazione se è più o meno grave di quello che è successo in altri partiti, è un pochino peggio perché è un declino un po' più triste, un po' più miserabile e, come leggiamo oggi nelle cronache, un po' da ballatoio, un declino un po' da ballatoio. Non c'è nobiltà, non c'è grandezza né nel male né nel crollo. Cioè, diciamo così, la grande epica wagneriana della morte purificatrice qui non c'è, qui c'è una cosa da operetta. Scrive testualmente stamattina Mattia Feltri: sono arrivati al potere già ebri, incapaci di capire che l'emersione da Colle Oppio, quartiere centrale ma insomma storicamente collegato alla destra romana, l'emersione da Colle Oppio richiedeva altra tempra. Avevano biografie da passeggio, ci dice Marcello Veneziani, che è di destra, e l'espressione è formidabile. Allora, contava anche insomma la biografia, il fatto che non avessero letto e studiato abbastanza, non conoscessero abbastanza il mondo, fossero, contava questo fatto? Beh, ma sì, assolutamente sì, perché non è che poi avere un po' di cultura sia così disprezzabile, aiuta a capire il mondo, lo vediamo tutti i giorni, insomma. Il problema è che mentre il movimento sociale che era nato dalle macerie del fascismo, nessuno lo vuole assolvere per l'amor di Dio, ma lì dentro c'erano delle teste, c'era stata una grande cultura che aveva portato avanti l'Italia, erano nati grandi movimenti culturali, il futurismo, insomma. Per dire, io ho citato due nomi, no? Filippo Anfuso, sì, nella democrazia, nella diplomazia e Ardengo Soffici nella letteratura. Cioè c'erano delle personalità, al di là del disastro del fascismo, ma c'erano delle personalità. Poi forse probabilmente perché sono stati messi ai margini questi missini, a poco si sono intruppati nei loro ghetti, no? Si diceva le fogne negli anni 70, si sono intruppati lì ed è diventato un loro piccolo mondo che li ha completamente scollegati dalla realtà. Quindi è stata veramente una piccola lotta di sotterranea, una piccola lotta underground soprattutto romana. Lì è impossibile che si creino delle leadership, quindi sono usciti ebri, intendo, perché sono arrivati al potere già entusiasti solo di quello, cioè non è stato un punto di partenza ma è stato un punto di arrivo. Ma in questa destra romana, ripeto, ci sono anche gli esponenti di sinistra, però qui siamo oggi con Mattia Feltri, parliamo di questo, poi renderemo le vostre telefonate che sono già arrivate, ma in questa destra romana degli affari poi per così dire spicci, come si può dire, a me fa abbastanza orrore questa storia per esempio di prendere i soldi per gli immigrati con anche, che ne so, i capi di gabinetto del PD che si davano da fare al ministro per avere più immigrati e con le cooperative corrotte che a quel punto ci facevano i soldi, e quelli di estrema destra che ci fanno i soldi, quegli stessi che poi mandano la gente a protestare a Tor Sapienza. Ma detto tutto questo, c'è qualche segno anche della vecchia Democrazia Cristiana, degli affari, delle cose a Roma, oppure è una storia a sé, come sembra di leggere il tuo articolo di oggi, Mattia? Io penso che sia una storia a sé, Oscar, nel senso che, ecco, poi intanto la tua premessa era ottima, perché poi anche a me oggi sono arrivate delle email dicendo ma la sinistra, sì, d'accordo, certo, c'entra anche la sinistra. Il problema è che oggi vediamo una destra, e per destra insisto, intendo gli eredi dell'MSI, una destra completamente azzerata, ha fatto più danni Berlusconi che Mussolini alla destra italiana, quindi stiamo parlando della destra perché c'è un caso a sé. Aspetta, tu hai detto una frase pesantissima, la destra italiana ha fatto peggio Berlusconi di Mussolini. Sì, nel senso che alla fine del ventennio mussoliniano c'era ancora un orgoglio, ci ricordiamo com'era rimpiangere, rifondare ma non rimpiangere, qualche cosa del genere, sì. Il motto di quell'MSI, di Pino Romualdi, di Almirante, eccetera. E quindi c'era ancora un nucleo che cercava di ricreare una destra. Io vorrei sottolineare che non sono un fan, no, della destra, certo. Per l'amor di Dio. Io sono, stiamo facendo i giornalisti, non i fan. Io sono politicamente molto più vicino a Oscar Giannino. No, questo è meglio non dirlo. ma è così. Mentre alla fine del ventennio berlusconiano, che cosa c'è? Siccome non c'è stata questa epica della caduta, perché poi Piazzale Loreto ha una sua epica, non siccome non c'è stata un'epica della caduta, ma solo una meschineria della caduta, allora è chiaro che il ventennio berlusconiano, alla fine del ventennio berlusconiano la destra non c'è più. Non c'è più neanche una prospettiva di destra. Io questo lo sostengo da qualche anno nel mio piccolo, diciamo così. E quello che voglio dire, tu facevi questo parallelo con la DC. La DC conservava comunque una grandezza che era nei rapporti internazionali, l'America, il Medio Oriente. Qui non c'è assolutamente nulla. Cioè, qui non è neanche un problema di criminalità. A me non è che mi preoccupa tantissimo il reato, certo che mi preoccupa, ma non più di tanto. Mi preoccupa la piccineria di questa politica. Per cui tu ti porti nel Campidoglio, un editore del Campidoglio, il guercio e il taccola. Quando tu ti porti lì il guercio e il taccola, vai buonanotte. Cioè, io quello che dico ad Alemanno è, io ti auguro di uscirne innocente, ma non ne uscirei ripulito, perché la figura è barbina a dir poco. Allora, io condivido purtroppo però per parola, adesso se no non l'avrei chiamato per il pezzo che ha scritto oggi, credo che veramente a destra, invece che far finta di non aver visto, di non saper nulla, dovrebbero riflettere un miliardo di volte e cambiare un mucchio di gente, al netto di quello che i magistrati poi giudicheranno. Intanto ringrazio Mattia Feltri, perché poi andiamo con le telefonate. Ricordatevi che noi abbiamo abbonato 18 miliardi di euro, 18 miliardi di euro di debito pregresso a Roma all'inizio della giunta Alemanno, e altri 2 miliardi e mezzo accumulati nel frattempo dalla giunta Marino. Quindi questa roba ha un costo sesquipedale. Non voglio ridurre tutto a quello su cui stanno indagando i magistrati della politica romana, però insomma le grandi partecipate, come vedete, la gestione di pezzi interi della politica urbanistica degli insediamenti, le cooperative sulle mensili asili e così via, fanno una signora fetta della spesa che è corsa a Roma in tutti questi anni. La versione di Oscar. E eccoci qui, tornati in diretta a parlare della vicenda romana. Ho fatto una domanda agli ascoltatori, se capiscono che la prossima volta più è prima che tentare di presentarsi come eticamente superiori, se sono di destra, sulla sinistra, viceversa, bisognerà guardare con grandissima attenzione al microscopio chi ciascuno propone a casa sua. Questa è la mia convinzione, che resto convinto che troppi miliardi pubblici senza controlli poi producano queste cose, invoglino. Non do giudizi generali, sentiamo come la pensate. Cominciamo con Alessandro che ci chiama da Roma. Prego Alessandro. Buonasera. Buonasera. Senta, lei, e io seguo abbastanza frequentemente la sua trasmissione e generalmente mi piace. La sua premessa però non mi è piaciuta, Perché? Perché lei si occupa di economia. Sì. E alla base dell'economia c'è molta statistica. Sì. L'incidenza che ci può essere una bassa affluenza di voto è all'origine anche in molte manipolazioni, a differenza di quello che può accadere quando è alta l'affluenza. Sì. Quindi il problema forse non è nella politica dei politici che ci sono, ma nella quantità di persone che vanno a scegliere i politici. Quindi il discorso forse andrebbe leggermente invertito. La prima cosa. Aspetti Alessandro, però io mica ho fatto un appello all'astensionismo, io ho detto solo di andare ma scegliere bene prima di essere convinti che l'etica stia a destra contro la sinistra o a sinistra contro la destra, di vedere bene che cosa le coalizioni e i partiti capiranno e quanta gente cambieranno e con che garanzia rispetto a quello che è successo. Figuriamoci se non sono d'accordo con lei, che la gente se va e sceglie è meglio piuttosto che se non sceglie. Comunque, scusi, continui. No, allora, è vero quello che lei ha detto, dice non c'è un implicito o roba del genere, però tutto, quando si tende a mischiare tutto, cioè a fare il minestrone, sì. Si invoca poi l'allontanamento. No, no, ma capisco, però guardi che secondo me sono loro che lo provocano. L'antipolitica è figlia del fa dello schifo che viene leggendo queste cronache che accomunano pezzi di qua e pezzi di là. Si figuri, io dico che la gente deve reagire. No, no, ma se questa era la sua preoccupazione, la ringrazio di averla chiarita, perché forse non mi sono spiegato bene io. Al contrario, io penso che la gente debba reagire attivamente. Sono i criteri della scelta. Ecco, dopo 20 anni di destra contro sinistra, in situazioni come quelle di Roma, io credo che il problema sia fare una grande scelta dentro piuttosto che gli uni contro gli altri. Magari mi sbaglio, però. Pino da Roma che pensa? Innanzitutto buonasera. Sì. Io penso due cose. Sono d'accordo con Feltri che parla di una destra lacerata, inconcludente, non propositiva, dopo 20 anni di berlusconismo. Ma la cosa più seria che a mio avviso va messa in evidenza è che il problema di Roma non è che è scoppiato in questi giorni, già dal 2010 si sapeva della situazione drammatica dell'infiltrazione criminale mafiosa. Pronto? E com'è che i partiti, se lei dice che si sapeva, ieri abbiamo avuto un ospite che 2 anni fa lo diceva e fu coperto di insulti dicendo ma come ti permette di dire la mafia a Roma? Lei dice addirittura da prima, ma com'è che i partiti non mi pare che abbiano reagito, anzi? Il problema è questo, è il consociativismo asfissiante che vede una sinistra sinistrata, quella del PD, prima con Marrazzo, perché il problema inizia da lì, poi con Veltroni, poi Alemanno ha vinto per sbaglio a Roma, non era prevista la vittoria di Alemanno. Io ricordo, ero candidato nel 10° municipio a consigliere municipale e facevamo le liste, io ero indipendente del PDL e si diceva prendiamo 2-3 consigliere perché il PD vince. Poi invece, sorpresa, grazie un po' agli errori a quella sinistra, io parlo di sinistra e sinistra, io non ho nulla a che vedere. No, se era candidato dall'altra parte, quindi. No, ma io veramente vengo da Democrazia Proletaria, quindi non ho nulla a che vedere. Si figura. Veramente avrei voluto votare per lei. Ma tanti malati qua. Allora, finiamo il discorso. Il discorso è questo. Questa classe dirigente del Partito Democratico a Roma, perché qui non si parla mai, non si fanno i nomi, cioè il capogruppo del PD di Roma e si chiama Marroni, sì, che sta con la foto insieme a tutti quelle, sì, sì, bellissima, sì, compagnia. E anzi abbiamo letto che pensavano di Roma, sì, che sì, è andato al Parlamento. Sì. È andato al Parlamento perché c'erano dei motivi per andare al Parlamento. Mm-hmm. Allora a Roma non c'è soltanto il problema degli zingari, dei nomi dei campi dove hanno fatto il business, ma ci sono le centralità, ci sono i piani urbanistici, sì, sì, che sono rimasti bloccati là. Sono e molto quindi d'accordo. Non hanno qui il problema destra-sinistra, alcuni gruppi della destra e della sinistra hanno sempre limitato la possibilità di migliorare questa città. Io come consigliere municipale del 10° municipio Cinecittà sono stato fatto fuori dal capogruppo e poi sono stato fatto fuori dalla commissione garanzia. Perché non si piegava? Va bene, allora guarda, siccome finisce la trasmissione, in realtà è che ci vorrebbe una trasmissione di 1 ora e mezza per farvi parlare moltissimi, qui troppe telefonate, mi scuso con Roberto da Como, Gennaro da Napoli e tanti altri. Ohimè, il mio tempo è finito, continuate con Radio 24, appuntamento a domani. Una marcia in più alle tue difese? Su con Sustenium Immuno Energy. È Menarini, in farmacia. vi ha presentato la versione di Oscar.